la prostata per curarla bisogna trombare! Guarda, Cruciani ha una prostata meravigliosa che viene esibita ai congressi medici per dire come si deve tenere la prostata. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Indonesia, Bali, in mezzo alle risaie, bordo piscina, tramonto, sorseggiando margarita, l'indonesiana, Cruciani, Parenzo, la zanzara. Se questo non è il top. Cruciani, eravamo in giro per Biella. La mia amorosa di 19 anni riconosce Vassallo e gli dice: io sto con Cruciani, amico mio! Contro il degrado, contro la corruzione, contro le mafie, vota e fai votare Italia Morale. Allora ragazzi, vorrei iniziare con una cosa un po' anomala stasera, eh? Si parlerà molto di unioni gay, la legge che è passata, eccetera, eccetera. Giornata storica, inutile. Ma giornata storica, sì, una giornata. Abbiamo fatto il titolo con Napoletano, giornata storica, due parole abbiamo deciso. Ma che giornata abbiamo storica? Abbiamo deciso così, giornata normale. Giornata storica. Allora, voglio iniziare però facendovi ascoltare. Ride Buccero, ma perché ride? Attore Dustin Hoffman. Dustin Hoffman. Sì, senti. Lenny Bruce. Roba vecchia. Doppiato da Gigi Proietti. Roba vecchia, però ha a che fare con le parole, con l'utilizzazione delle parole. Sentite, eccezionale. C'è qualche lurido negro qui stasera? Volete accendere le luci, per favore? E i camerieri e le cameriere possono smettere di servire per un momento? Grazie. E spegnete i riflettori. Allora, che cosa ha detto? C'è qualche lurido negro qui stasera? Io so che ce n'è uno perché lo vedo lavorare laggiù. Vediamo. Ecco là, due luridi negri. E fra quei due negri c'è un giudio usuraio. E là c'è un altro giudio, due usurai e tre luridi negri. E c'è anche uno spaghetti, giusto? Oh, ecco un altro spaghetti. E ecco là un greco traditore. E poi un paio di spagnoli unti. E anche tre ubriaconi irlandesi vestiti bene. E poi c'è un tipo nero, moro, brutto. Un lurido negro. Ho tre usurai qui, qualcuno dice cinque usurai, siamo a cinque usurai. Qualcuno dice sei spaghetti, ho sei spaghetti. Qualcuno dice sette negri, siamo a sette negri. Aggiudicato. Io passo con sette luridi negri, sei spaghetti, cinque ubriaconi irlandesi, quattro greci traditori e tre usurai. Stavi per spaccarmi la faccia, vero? E con questo siamo arrivati al punto. E cioè che è la repressione di una parola, quella che le dà violenza, forza, malvagità. Attenti, se il presidente Kennedy apparisse in televisione e dicesse: vorrei farvi conoscere tutti quanti i negri del mio gabinetto. E se continuasse a dire negro, tutti i negri che vede. Moro, negro, finché negro non significa niente, mai più. Allora non vedreste più piangere un bambino di colore di 6 anni perché qualcuno a scuola lo ha chiamato negro. Non c'è niente da fare, è una specie di manifesto della zanzara. Si può utilizzare, se al posto della parola negro mettete la parola frocio, eccetera, e il risultato è lo stesso. Sì, ma lui lo diceva in un'altra chiave, eh. padre Livio Fanzaga è impazzito. È impazzito. Davanti alle nozze gay impazzisce. Sentite. Le nozze gay diventeranno legge per lo Stato. Sappiamo che questa è l'ora dell'impero delle tenebre, non ci facciamo illusioni. Questa è la vostra ora, però sapete che le cose che fa il diavolo durano poco, insomma. Le cose del diavolo. Per carità, ci sono tante cose che non vanno in questa legge, secondo me. Non ho capito, il libero Parlamento sarebbe governato da diavoli. Governato dal diavolo, secondo Fanzaga. Il Parlamento italiano è governato da diavoli, secondo questo signore qui. No, dal diavolo. Cioè, dal diavolo. Cioè. Mandate l'ambulanza, ma portatelo via. Il nemico per noi sono mai gli altri, per noi il nemico è il diavolo e sappiamo che la Madonna ci ha detto che il diavolo oggi vuole distruggere la famiglia. Il diavolo vuole distruggere la famiglia. Ma ragazzi, ma questo qua la mattina quando va a fare le sue cose a Radio Maria beve qualcosa, secondo te o no? Speriamo. No, che, ma naturalmente è così, secondo che me. La giustificazione, cioè, sia lui questa, pensa davvero che la Madonna, Madonna, già si potrebbe discutere sulla Madonna, però uno crede alla Madonna, che devi fare? Se uno crede alla Madonna, alziamo le braccia. Io, come sai, essendo di un altro partito, di un'altra parrocchia, non entro. Oggi uno dice: io credo nella Madonna. Vabbè. Dice: vabbè, portatelo via, però vabbè. Ma no, portatelo via perché non c'è nulla. No, di male. Ma credi nella Madonna, vabbè, d'accordo. Cioè, va benissimo. È come certo. Credere al Divino Telma, perché no? Beh, cioè, si potrebbe credere anche al Divino Telma, perché no? Questa, ma come no? È una specie di perché mestiere. No? Perché bisogna scusami, perché devo credere alla Madonna e non al Divino Telma? Perché Telma è un fanfarone. Beh, ma anche la religione racconta tante fanfaronate. Ma le religioni lo racconta millenni di tradizioni. Perché Elohim? Ma non si può discutere. Gli alieni sono una cosa. Gli alieni. È così, perché? Hotel. Ma come si fa a paragonare una religione millenaria con un buffone pagliaccio che ha dei turbanti nella testa, degli anelli e parla col plurale maiestati? Senti Fanzaga, che si permette, però Livio Fanzaga si permette di dire che la fiducia che ha posto il governo sulla vicenda delle nozze gay, che ha fatto benissimo, che dopo mille discussioni basta, si vota contrari o favorevoli, punto e basta discussioni inutili, ha fatto benissimo da questo punto di vista. Fanzaga, un uomo di chiesa, si permette di dire che è fascismo strisciante, ma come lui ci sono tanti altri preti e tanti altri vescovi oggi che hanno detto, si sono permessi di dire, beh, la fiducia non si deve porre. Ma scusa, amico mio, voi come le prendete le decisioni all'interno del Vaticano? C'è forse un consesso? C'è la democrazia? No! È una dittatura assoluta, quella del Papa, con varie mediazioni. Dunque non rompeteci i coglioni sulla fiducia. Il monsignore del cazzo, la Galantino, il monsignore della minchia, di quell'altro. Mi sono rotto io i coglioni. Di fronte a queste tonache della minchia che si permettono di dire la fiducia. No, non ce la faccio poi più. Eccessivo, di fronte alle tonache, ai signori monsignori, che ci dicono la fiducia sì, poi possono dire quello che vogliono, ma su come funziona il Parlamento, loro che sono partecipi di uno Stato dittatoriale comandato da un signore eletto dallo Spirito Santo, mi devono rompere i coglioni, chiaro? Fanzaga e gli altri preti, no, su come noi facciamo le leggi con tutti i nostri difetti. Tantinello eccessivo, su come fanno le leggi, su come noi facciamo le leggi, non mi devono scassare il cazzo, possono fare tutto, possono discutere, però su come noi facciamo le leggi non mi possono rompere i coglioni. Cioè, possono discutere e essere contrari, ma loro che non eleggono, hai visto, lo sai come eleggono il Papa? Non è uno Stato, certo, c'è lo sai, c'è no? Il conclave, lo Spirito Santo, conclave i cardinali, nominati il conclave e loro fanno la fumata bianca. Fanzaga, ti rendi con la fumata bianca e la fumata nera, rompono i coglioni sulla fiducia. Non vorrei che ci fosse l'equivoco della fumata, nel senso che la fumata è relativa alle schede che bruciano, non alla fumata. La fiducia, appunto, dai. Marijuana. Con la fiducia, purtroppo, il Parlamento viene imbavagliato. E in questo modo non si tiene conto che esiste una grande fetta del paese che questa legge non la vuole. A mio avviso questo modo di fare è fascismo strisciante. Stalin è risorto, secondo Stalin. Fanzaga. Sto Fanzaga, guarda che incredibile sto Fanzaga. C'è uno che dice che Stalin è risorto, è tutto il fascismo, eccetera, eccetera. Ma che è? Cioè, no? Ovviamente il diritto all'obiezione di coscienza è un diritto elementare, ma se diventa tolto anche quello vuol dire che Stalin, sotto forme diverse, è risorto. Amici della Zanzara, lasciate perdere, io la Zanzara non la voglio sentire perché mi interessa il traffico, voglio sentire il traffico. Ma siete due somari, andate a casa, andate a lavorare, barboni. Ma chi ce l'ha stasera? Allora, ce n'è un altro però, un tizio della NCD. Sai che cos'è l'NCD? Nuovo Centrodestra. Sì, Nuovo Centrodestra. Ancora esiste Nuovo Centrodestra. Il partito di Alfano. Sì, esiste secondo te ancora? Ma non, sulla carta esisterà. Sulla carta esiste. No, qua fuori, cioè, occupano posti in Parlamento illegittimamente. Non so se uno esce fuori Viale Monterosa o dall'ufficio e dice NCD! Non so se qualcuno si gira, però... No, ma il problema è che occupano posti in Parlamento che non sono loro. Cioè, occupano posti di persone eletti da altre persone. Una truffa colossale, sostanzialmente. Beh, il Parlamento funziona così, sì, che uno passa da una parte, uno dall'altra. Allora, NCD, che non esiste, il signor Pagano. Dice, senti che esiste il disegno diabolico, senti questa cosa qua, esiste dietro questa cosa qua dei gay, gay, il disegno diabolico... Ma non sono dal governo. No, hanno votato contro, il disegno diabolico di disgregazione dell'umano. Abbiamo assistito a una strategia concreta nella lotta contro la sacralità della vita e il valore della famiglia naturale. Prova concreta che esistevano ed esiste un disegno, oserei dire diabolico, molto ampio, la disgregazione dell'umano, virgolettato. Provo a ricordare a quest'Aula e al Paese che l'Italia ha il più basso indice di natalità al mondo e che nulla si sta facendo per risolvere questo problema. Ma ora cosa c'entra l'indice di natalità col matrimonio tra i froci? Cioè, sono due cose completamente diverse. Cioè, non è che una cosa elimina l'altra. Dai, ragazzi, forza. Jacopo, provincia di Varese. Vai. Jacopo. Ciao. Dimmi. Ma cosa mi devo rilasciare al discorso iniziale sui negri? Che io sono cresciuto sfortunatamente. No, scusami, Jacopo, dove... che cosa ti devi rilasciare? Tu devi dire quello che ti pare. Ma guarda, io penso che questa cosa dei matrimoni gay sia giusta, così lavorano di più tutti, anche i ristoranti, quelli che fanno i vestiti, le bomboniere, poi lavoreranno di più anche gli avvocati per quando si separeranno. Quindi, per i matrimoni, dici? Sì, per i matrimoni. Vabbè, oltre a questo, che cosa vuoi dire? Oltre a questa stronzata che lavoreranno di più, che fa... No, però non è una stronzata, fa aumentare in realtà. Fa muovere PIL. L'economia italiana, non è una stronzata. In molti posti è così, in realtà. Può essere, vero. Allora... Pensala che... non mi ricordo su che trasmissione, forse Virus, c'erano due donne a confronto e parlavano anche delle adozioni per i gay. E io penso che sia una cagata, no? E una diceva che... Uno ovviamente era d'accordo e una era contro. Vabbè, però allora... tu pensa, questa diceva che era anche volgare dire che si dà l'utero in affitto, perché era l'utero in prestito. Allora, il povero Silvio che prendeva in prestito o in affitto per 10 minuti la bocca o la vagina delle donne, perché l'ha messo al muro, accidenti? Questi prendono in affitto o in prestito per 9 mesi l'utero. Ma questo è pazzo, ma che cazzo di provocazione? Vabbè, un'altra cosa, dai. A parte che l'utero in affitto non c'entra niente, perché in questa devo dire la verità, non è sbagliata come cosa. Cioè, le donne... Lei, se le capita, affitti un cervello, però, che secondo me però può tornare... Però Jacopo sta dicendo una cosa, una donna può tranquillamente affittare un utero in alcuni paesi, no? Può anche vendere affittare il proprio utero. E infatti uno può vendere il proprio corpo, non è mica un problema quello, è già previsto, è già così. Ah, uno però può... è immorale che il Berlusconi faceva quelle cose lì, però. Ma no? È immorale se c'è lo sfruttamento, salame d'un salame, vado in un negozio a comprarsi un cervello. Ma tu, Parenzo, ma è stato anche assolto, dai. Un bambino cresce nella pancia di una donna e sente il cuore e la voce della mamma per 9 mesi. Vabbè, pazienza, e poi invece arrivano altre persone che l'hanno comprato, hanno comprato questo bambino e sono tutti d'accordo, tranne il bambino che chiaramente non può decidere. Sono contro l'utero in affitto, ma non c'entra nulla con questa legge. Ciao. Tahir da Salerno, vai Tahir. Salve, buonasera. Dimmi Tahir. Salam aleikum Tahir. Ma che è sta cosa? Salam aleikum. Tahir, da dove vieni salam tu? Scusa. Aleikum. No, salam aleikum vuol dire buonasera. Sì. Comunque diciamo ho tante cose da dire, però no, prego fratello, parla. Due cose. Sì. Comunque vi voglio tanto bene. Vabbè, questo diciamo... ce ne fottiamo. Bello questo, molto bello. Poi De Cruciani. Da quanti anni sei in Italia, fratello? Io sono più o meno da 9 anni. Molto bene. 9 anni. Come sei arrivato, con un barcone? No, io sono laureato in giurisprudenza. Bravissimo. Sono venuto qua regolarmente. Poi laureato! Hai capito, Salvini? Laureato in giurisprudenza! Grazie di essere venuto. Grazie di essere venuto. È laureato in giurisprudenza? È venuto regolarmente. Capito? È venuto regolarmente, mica col barcone. Non è venuto illegalmente in Italia. È venuto regolarmente in Italia. Dove sei laureato in giurisprudenza? Dove? Comunque, allora voglio dire... Al Cairo, vista del Cairo, dove sei laureato? Questa trasmissione è molto bella, sì, perché non c'è... è senza artificialità, sì, no? Sì. Comunque, diciamo... per questo vabbè, Tahir, adesso non è perché, no, sei, parare, perché sei di origine lascio non so parare, che cosa, egiziana, sì, marocchino, o cos'è, sei, puoi permetterti di non dire nulla, devi dire qualcosa, sì, anche in maniera, sì, veloce e concreta. Soltanto che quando Cruciani tu dici, allora quando la gente ti chiama per criticare, no, sì, dice che di cambiare il canale, mi sembra un poco di dittatura. Ma non c'è nessuna dittatura, è il massimo della democrazia, di che parliamo, dai, su Tahir. Hai capito? E poi la seconda cosa, la dittatura, allora, ci sarà nel paese da dove vieni, magari non qui, amico mio. No, perché diciamo a fianco a te pure Parenzo mi sembra una persona che è molto, diciamo, che sa i suoi limiti e sta facendo la trasmissione molto bene. Molto bene. E comunque io non c'ho niente da dire contro Parenzo. No, tu non c'hai niente bene da dire in generale. No, no, ha da dire. Tu non hai niente da dire in già generale. È una storia da approfondire, straordinaria. Ma quale storia di che? Bellissima. Come sei arrivato, scusa, regolarmente, già con un contratto di lavoro in Italia sei arrivato, probabilmente. Sì. E figliatela in quel posto, Parenzo. 9 anni, laureato in legge. Dove contratto sei laureato? Contratto di lavoro regolare, dove venuto sei in Italia. Perfetto. Dove sei laureato? Al Cairo? Mica è venuto col barcone. No, io sono del Pakistan. Sono laureato in Pakistan. La famosa Pakistan. Il famoso diritto, sì, del Pakistan. Sì. E adesso diciamo, le donne le trattate fare... un po'. Le donne le trattate un po' malino da quelle parti. No, donne. Un poco benissimo. Poi no, ci sono un poco i casi benissimo. Che... No. Ma di che? Cruciani, vedi che succedono le cose pure qua, no? Quindi come si usa dire? Non paragonare tutto, la condizione della donna in Italia con quella in Pakistan. Mondo è un paese. No, allora, tutto il mondo sono... non è paese, amico mio, ti sbagli, no? No, Cruciani, ascoltami, no? Senti, allora, in Pakistan in alcune... Il mondo va avanti, il mondo sta crescendo, quindi allora il la società del Pakistan, sì, allora io conosco che allora sono tanti difetti, però allora con il tempo o veloce o lento, però allora si va avanti e io vedo che le cose comunque stanno migliorando. La seconda cosa... No, la non c'è nessuna cosa. Seconda cosa, Alberto, okay, da Roma, ciao Tahir, ciao, no, ma che un minuto, grazie, ne presi tre. Grazie di questa testimonianza. Quale testimonianza? Grazie. È arrivato in Italia a regolare. No, questo è un... Alberto da Roma, questo vai. È il paese, questo è. Buonasera. Dunque, brevemente ho fatto una riflessione mentre parlavi, dimmi, di Padre Livio, sì, e dicevi quelle cose su Padre Livio che io tra l'altro ogni tanto sento anch'io su Radio Maria. Ottimo, noi facciamo pubblicità a Radio Maria, tutti devono sentire Radio Maria la mattina, così vi accorgete di Padre Livio. È bello sentire anche le opinioni altrui. Vabbè, no? Alberto, allora che vuoi dire? Ecco, molto brevemente si tratta di questo. Tutti, dico, Padre Livio, se non erro, correggimi se sbaglio, sì, è un cittadino italiano, sì, e come tanti altri preti, sì, cittadini italiani, possono, sì, esprimere anche la loro opinione. No, ma assolutamente, figuriamoci. Assolutamente. Padre Livio, infatti, Padre Livio può tranquillamente dire quello che vuole, noi siamo liberi di criticarlo. La cosa che ho detto io è che i vescovi, i rappresentanti dello Stato del Vaticano, poi possono anche essere cittadini italiani in alcuni casi, che mettono bocca sul modo in cui abbiamo approvato la legge sull'unione gay, mi hanno rotto i coglioni, perché loro non hanno la democrazia, decide tutto uno ed eleggono il Papa con la fumata bianca, la fumata nera e soprattutto con lo Spirito Santo, cioè con un conclave di non c'è la democrazia nell'elezione del Papa. Dunque sulla democrazia non accettiamo lezioni dei signori vescovi, punto e basta. Per il resto sono liberi di dire quello che vogliono. Siamo al top, ragazzi, siamo al top. Cruciani, che cazzo d'amici che hai? Parenzo, Telese, ma dove l'hai trovati, eh? Gli amici tu li prendi da Risparmio Casa. Allora, parlavamo ieri di Marchini, il candidato sindaco di Roma, anche di Berlusconi, oltre che di se stesso e del suo movimento, il quale Marchini, come sapete, ha detto no, io non registrerei le unioni gay. A questo punto dovrebbe violare praticamente la legge, oppure farle registrare magari da un suo funzionario. Non si capisce bene in questo dibattito elettorale a Roma, in cui si può dire veramente qualsiasi cosa. Però abbiamo ritrovato che cosa? Una dichiarazione dello stesso Marchini, qui a Radio 24, alla Zanzara, Parenzo, tu non te lo ricorderai, dove Marchini praticamente disse il contrario. Disse sì al... maledetto archivio. Sì al registro. Era il 9 di aprile del 2013, praticamente alla vigilia, era sempre candidato Marchini, alla vigilia delle elezioni comunali a Roma, quella in cui fu eletto Marino, signor Marino. Marchini disse sì al registro. Vedete, le cose cambiano in 3 anni, dipende dagli alleati, dipende da chi sei, con chi stai. È la politica, è la politica. Beh, la politica in questo caso si potrebbe anche dire la politica un cazzo, comunque. Senta, ma lei lo farebbe un registro per le coppie gay al Comune di Roma? Io credo che sia Io uso uno slogan è molto efficace, e cito Sant'Agostino, ama e fa ciò che vuoi, quindi trovo che secondo me è importantissimo. Vabbè, che è una frase non banale, che è una frase no, che assolutamente, ma sto registro lo farebbe o no, a prescindere dalla legge, lei è a favore dei matrimoni gay? Io credo che il registro sia una cosa, io credo che due persone che si amano e che vogliono avere un riconoscimento civile, credo che non sia assolutamente scandaloso dargli questa opportunità, anzi sia un diritto dovere. E dunque il registro lei lo farebbe se fosse sindaco? Un registro? Il registro certo. Ragazzi, più di questo. Cambia, Toto, cambia, come diceva la cantante. Capito, però tre anni dopo, non è che è passato un secolo, tre anni dopo su questioni del genere non è che uno cambia opinione, no? E dice il registro non lo farei, poi oggi ha ribadito le nozze, il matrimonio è sacro, ma chi dice matrimonio? Dice una cosa completamente diversa. No, peraltro l'ho già detto ieri, quindi non mi ripeto, però la cosa strana è che non è che Forza Italia su questa roba fa le barricate, perché Forza Italia è quella che ha votato la legge sulle unioni, cioè a favore. Guarda che c'è Mauro da Mantova che ti aspetta, signor Mauro da Mantova, signor Mauro. Non è più tempo per miserabili, non è più. Mauro, dimmi. Io ti lascio parlare, Mauro, però devi andare, devi essere serio, devi essere una persona seria. No, allora ti dico subito. Sì, un'altra volta che mi fai un'imboscata come l'ultima che mi hai fatto, ti mando a fanculo, Vabbè, perché Mauro, adesso no. Coglione, sì, vabbè, non ti mettere in viva voce adesso però, pure Ma non sono in viva voce. Ok, vai, dimmi, dai, forza. Allora, già questo paese da 5 anni non è una democrazia, ma è una dittatura. Vabbè, una dittatura. Ci mancava solo il matrimonio gay. Vabbè. Ma dobbiamo far ridere anche in Sudafrica. Ma perché? Altri paesi ce l'hanno, eccetera. Poi si può discutere mille volte, ma insomma... Sì, ma c'è anche quello che gira con uno stronzo in testa, no? Vabbè, ma che c'entra adesso? Scusami. Ascolta, ma adesso va bene tutto. Una coppia, io non sono contro i gay, cioè io ho amici gay, le lesbiche no, perché le odio molto, perché sono cattive come la merda. Ma perché le lesbiche? Ma che hanno fatto le lesbiche? Delle immagini, le lesbiche sono cattive come la merda. Ma perché sono cattive le lesbiche? Scusami, sono come i bisex che non accettano di esserlo. Ce l'hai a fianco un idiota lì. Ma non è bisex, ma non è vero, non è bisex, non è bisex. Scusi se la contraddico, Scusa, ma non sono. Vabbè, lasciamo per... Mia figlia mi ha sempre detto: sì, c'ha una figlia, ricordati bene una cosa: è padre, quando un uomo è padre, è padre, è padre, poi sono contrario alle adozioni, e questo signore è padre, è un procio. Ma come padre, Mauro da Mantova? Non può essere un padre, un procio. Signore pietà, Cristo pietà, ma come padre? Detto, ma la figlia, aspetta, ma che ne sai che è un ma è gravissimo, scopriamo oggi che questo qui è padre, è padre questo qui, ma perché non può essere padre, ma la povera figlia, ma ascolta, ma la figlia, ma non si vergogna come una matta ad avere questo qui? Scusami, Mauro, ma il polso, che ne sai che c'ha il polso molle, sai adesso, chi è il padre? De Benedetti, De Benedetti il padre, quel coglione lì, De Benedetti il padre, quel coglione lì, no, sai perché quando faceva i servizi del cazzo per suo zio, sai, ma non è lo zio, ma dai, vabbè, allora io Mauro voglio capire una cosa. Comunque, che ne sai che c'è il polso faceva, molle, che ne sai che c'è in quelle tv tiratevi, che c'aveva sempre il polso molle, ma perché il polso molle è dei culattoni come lui, punto. Ma perché dici culattoni? Che male ti hanno fatto i culattoni? No, ma io non mi ha fatto niente, però lui vuole camuffare la sua vera identità. Vabbè, ma lui ti assicuro che non è frocio né bisessuale. Di te. Dice che sei frocio, forse anche bisessuale. Vabbè, d'accordo, se ne farà una ragione. Ma pensa alla figlia di questo qua. Ma pensa alla figlia di Mario. Ma pensa alla figlia di Mario. È inutile che vai a dire 2 milioni e mezzo di ascoltatori della Zanzara hanno scoperto oggi con trauma che questo signore è padre. Allora, bisogna rivedere veramente tutto in questo paese. Se Mauro da Mantova è un padre. Hai finito di cagare? Povera, ma lei non ha più rapporti con sua figlia. Lei non ha più rapporti con sua figlia. È scappata di casa, si vergogna come una ladra, evidentemente. Ma stai zitto, merda. Ma lei non ha più rapporti con sua figlia. Tu non sono nemmeno tuoi figli. I figli non sono nemmeno tuoi. No, infatti. Ma no, come no? Sono suoi. Sono di De Benedetti. Ma come suoi? Della Trilateral. Come meno gliela avrà coperta. Qualche amico gliela avrà coperta. Vabbè, Mauro, allora che cosa vuoi dire oltre al fatto che non va bene fare i matrimoni gay? Ascolta, dimmi. Io la settimana scorsa ero in Sud Tirolo, perché io per lavorare in Sud Tirolo, vabbè. Devo andare in Sud Tirolo grazie a quel coglione di Monti e quel bastardo di Renzi che è un figlio di puttana. Beh, vabbè, Renzi bastardo, figlio di puttana, vabbè, tutte sì, cose. Figlio di puttana. Sì, ma ti assumi tu tutta la responsabilità, minchiate. Renzi è un figlio di puttana. Se non le credo nessuno. Vabbè, allora sei andato in Sud di Tirolo, ma noi che cosa ci importa se tu ti andi? Perché sei stato costretto ad andare in Sud di Tirolo? Spiegami. Perché in Italia quel deficiente proprio di merda di Monti ha distrutto la piccola media. Ma che c'entra Monti adesso che ha distrutto ma la piccola media? Ma chi è che ha distrutto? Ebreo, ebreo Monti, non è vero, non è ebreo Monti tra l'altro, non è ebreo. Ma chi te l'ha detto te? Ma di chi è la colpa? Ma vede bene, ma chi te l'ha detto che non è ebreo? Ma chi te l'ha detto? Renzi? Ma chi te l'ha detto? Renzi e la Fornero! Ascolta, ascolta la Fornero! La Fornero è ebrea! L'ho vista! Ma muore Cesso! Quale sinagoga? Non va mai in sinagoga. Ma com'è che muore Cesso? Non è possibile. Non è mai stata in sinagoga la Fornero. E la vinci tu! A Mantova! Cosa a Mantova? Cosa succede? Dimmi Mauro, dimmi. Ascolta. Dimmi. Io ti ho detto... Sì, però vai su, cerca di avere un po' più di carica, perché mi sembri moscio stasera, mi sembri moscio. Ma sembri moscio? Mi sembri moscio, mi sembri moscio e poi basta con queste cose. Sai benissimo che non si possono fare queste cose. Ero in Sud Tirolo, sì, dimmi. E prendo il caffè e vedo il giornale locale che è scritto in tedesco. Allora? E c'era la fotografia dei centri sociali italiani che sono andati, che volevano andare allora? Sabato là, sulla cosa, in dogana. Vabbè, insomma, allora? Confine. Allora gli ho detto, ma qui cosa succederà domani, perché era venerdì? E domani succederà che si prendono una bella mano di legnate e poi se le trovano. Vabbè, allora? Ma con tutti i problemi che ci sono in Italia, cosa serve andare a fare i cretini gli spigati? Vabbè, non è niente da dire stasera, Mauro. Non è niente da dire. Sui matrimoni gay non è niente da dire, dai, altre che saranno un complotto di De Benedetti, che è un complotto di De Benedetti. Ascolta, secondo te, con tutte le cose che dovrebbero cambiare, modificare per incentivare l'economia, ci preoccupano di fare ste stronzate. Queste sono stronzate. Vabbè, infatti l'hanno fatto in un giorno. Adesso dimmi tu, cosa serve fare il matrimonio gay? Ti porta più PIL? No, più PIL. Vabbè, ciao Mauro. Ciao Mauro. Non c'è un cazzo. Cosa serve andare il consentino tra gay per avere tre voti? Ciao Mauro, ciao. Andrea Roma, vai, Andrea. Te diverti troppo con questi personaggi. Sì, ma Mauro. Stasera non ha argomenti, Mauro. Stasera? Sì. Ah, perché in genere lo invitano. Però abbiamo scoperto che ha una figlia. Questo è terribile. No, questo poi mi dispiace anche per tutta la famiglia. Io pensavo fosse un personaggio singolo, appunto un matto, uno dei tanti. E sapere che questo signore è padre. Questo mi mette una tristezza, un rammarico, un dolore anche per questa povera ragazza che evidentemente. Sai perché non beve il latte? Ma dice non beve il latte. Non beve il latte perché te benedetti. Dice no, guarda, gli stai dando il latte male. Tu ti immagini quando allattava la figlia, poveretta. No, lui no, la mamma. Sai perché? E poi c'è anche la mamma, la moglie. È anche curioso. Ma è tutto mostruoso, effettivamente. Se uno va nel dettaglio di questa storia, lo fa con rammarico, con tristezza. Cioè, dici i servizi. Però adesso lo stai insultando nei suoi affetti più cari, pure tu, dai. Lo stai insultando nei suoi affetti più cari. Stai dicendo che la figlia è il prodotto di un mostro. Che si dovrebbe vergognare del padre. Sì, quello sì. Dai, lo dico io. Questo lo dico Andrea io. Da Roma, dai, Andrea. È scappata da Mantova, ragazza, no? No, la riflessione che facevo sul signore da Mantova, che ha affermato di avere degli amici froci, pensa se non erano amici suoi, che cavolo poteva tirare fuori. Vabbè, allora. Ha detto questo, no, sull'unione gay io sono abbastanza d'accordo, nel senso che mi sta bene, cioè se due persone si amano, siamo due uomini, due donne, sull'adozione assolutamente. Vabbè, questo però adesso che tu ci chiami per dire non sono d'accordo sull'adozione, va bene, per carità, però registriamo e andiamo, punto e a capo. Dunque. No, ma volevo solo. Niente, sei contro l'adozione, va bene. Paolo da Roma, vai, Paolo. Oh, buonasera, dimmi. Come stai? Dimmi, bene. I tuoi sicomi, come stanno i tuoi sicomi? Quando ti vedo a Tikitaka, vedo i tuoi sicomi. Ma io. No, guarda, io i miei sicomi sono naturali, non sono rifatti. No, non sono naturali, sono. No, sono naturalissimi, guarda, ti posso assicurare. No, sono zigomi caratteristici dei froci. Ah, sono zigomi caratteristici dei froci, benissimo. Sì. Quali sarebbero gli zigomi caratteristici dei froci? Spiegami, quali sarebbero? I froci che io nella mia vita ho conosciuto hanno i tuoi zigomi. Bene, dopo questa cosa qui, fermo lì, mi devo fermare un attimo perché questa cosa qui è importante. Cioè, esistono degli zigomi, cioè delle caratteristiche naturali, siamo all'ombroso praticamente, delle caratteristiche naturali fisiche tipiche dei froci. Quando sento Parenzo giro su Radio Maria, glielo giuro. Cruciani, io quando vivevo con mia mamma la facevo in piedi, ma da quando vivo da solo e mi tocca pulire il cesso, la faccio seduta, fidati. Allora ragazzi, prima di tornare con Paolo da Roma, io vorrei ascoltare Amadeus, perché lo stanno mettendo in croce, poveraccio, per una cosa detta, per un fuori onda detto durante la sua trasmissione su Rai 1. E vabbè, che c'entra sulla Rai? Non ho capito, ma che cosa ha detto di così tragico? Stanno tutti attenti a fare TikTok, ragazzi, scappa una battuta. Nessuno tocchi Amadeus, tocchi Amadeus. Un errore ci può stare, in questo caso è un piccolo errore perché ovviamente non sapeva di essere in una coda del programma che poi è stato ripreso. La questione è la minchia nera, sì, la parola è la storpiatura della canzone che lui con ha la fatto. Minchia voglio nera, voglio la pelle nera, e lui invece dice che vuole la minchia nera. Ho capito, ma sulla Rai, amico mio, ma di che parliamo? Capito, ma non è che l'ha fatto apposta, cioè non l'ha fatto apposta, cioè non è che ha detto voglio la minchia nera con le telecamere davanti, non l'ha fatto apposta, no, cioè era il finale di una cosa che lui non sapeva che sarebbe stata messa in onda. Dopodiché si è scusato, eccetera, e nessuno tocchi Amadeus. Nessuno tocchi Amadeus. D'altra parte, a Striscia la Notizia, se non sbaglio, al Tapiro, quando gli hanno consigliato al Tapiro ieri sera, è stato perfetto. Non è che ha detto si è messo lì a fare l'appecoronato, no, si è messo lì a dire no, ma non volevo, e qui ha detto esattamente quello che voleva dire. Dai. Perché lei vorrebbe avere questa M nera? Ma perché insomma è come gli addominali, visto? Volte, visto che addominali che ha, quindi dici beato lui che ha quegli addominali, e quindi forse sarà, come dire, canticchiando, e forse una speranza. In un'altra vita posso rinascere. Perché la sua M bianca non le va bene? Beh, per carità, però dopo 53 anni uno dice vabbè, magari vorrei qualcosa di più. Uno cerca sempre di migliorare nella vita, no? Strano che il signor Amadeus pensi una cosa del genere. Dice perché tu, vedendo il mio naso, hai pensato non ce n'ha bisogno. No, dico, poi con queste mani, di solito naso e mani danno proporzioni. E chi può dire che ancora non ci sia possibilità di miglioramento? Però chiedo scusa, non era mia intenzione, era un fuori onda. Io ovviamente è un'espressione che non va detta, quindi mi dispiace giocherellavo togliendo il microfono, ma è vero che era acceso il microfono, non doveva, però la responsabilità è mia. Di una M nera, che se ne fa la sua età? Non lo so. Fa fatica a gestirla. È bravo, poi, forse perché hai ragione. Quindi il Tapiro è più per quello, come dire, è un consiglio di non. Abbiamo pensato magari che fosse anche un coming out, nel senso che lei. Pensato, non è che magari la vorrebbe addirittura, se andata a pensare a questo. Quello non ci sarebbe niente di male, ma no, quello no. Alla fine non fa il coming out sulle dimensioni del suo pene, il signor Amadeus. Vabbè, se uno dice voglio la minchia nera, intende la voglio più grossa di quella che ho. Questo è il senso. Non farei, diciamo, l'esegesi, l'interpretazione semantica, l'Umberto Eco che interpreta le parole, storpiato una canzone in diretta televisiva. Ha detto che dopo 53 anni vorrebbe qualcosa in più, dunque qualche significato ce l'avrà questa cosa, no? Adesso questo. Però vabbè, comunque è un lapsus. Un po' sì, dai, perché altrimenti non lo dici, no? Vorrei la minchia nera, lo dici solamente quando un po' dentro di te hai nella mente qualcosa che alberga, che governa. È uno stereotipo, dai, uno stereotipo. Vabbè, io non voglio dire niente, per carità. Paolo da Roma, Paolo, allora, dove eravamo, Paolo? Parlate sempre dello stesso argomento, ma tu sei Corolla o Pistillo? Sono? Corolla o Pistillo? No, io sento poco, alza la voce, avvicinati al microfono. Sei Corolla o Pistillo? Usa la metafora floreale. Sì, Corolla o Pistillo, non lo so cosa sono, dimmi. No, io no, perché è interessante, perché non fai altro che parlare di questo. Senti, stai amico mio, di che mi vuoi parlare? Di che mi vuoi parlare? Io ti voglio parlare che se tu prendi d'aceto, perché io ti dico che tu sei frocio. No, ma gli zigomi, tu eri quello dello zigomo. Perché tu offendi la Madonna. Io non ho offeso la Madonna. Tu sei un gran frocio. No, io non ho offeso la Madonna. Attenzione. Lo sanno tutti, lo vedono. Vabbè, quando lo vedono dagli zigomi. Anche. Guarda che io ho frequentato da ragazzo tutti gli oratori, tutti i cinema di Roma dove c'erano tutti i froci, e ti giuro che avevano tutte le tue sembianze, un ricordo, un ricordo, ma tu sei la quintessenza del procio romano. Vabbè, sono la quintessenza del procio romano. Guarda che a me non mi offendi, cioè invece tu lo dici, no, in modo offensivo. A me non mi offendi, no, per niente. Tu lo dici, no, sei fro, dagli zigomi sembra che sei fro. Tu lo dici perché mi vuoi offendere, ma a me non mi offendi. Tu sei romano d'adozione o sei romano? No, sono a romano, Roma, non ti preoccupare. A Roma dire frocio vuol dire essere patito di qualche cosa all'ennesima. Lo so. Sono frocio della Lazio, sono frocio della Roma, sono frocio di questa frocio serie. Frocio della provocazione. Ma perché non parli dello sport invece della Madonna? Io non ho offeso la Madonna. Ho detto che crede nella Madonna. Ho detto che credere nella Madonna è come credere nel divino Telma. Questo ho detto. Esatto. Vabbè, ma che non è un'offesa. Non è un'offesa per niente. Ma tu lo sai. La superstizione è uguale sia per il divino Telma che per la Madonna. E vabbè, pazienza. Ma amico, ho detto che non bisogna. Non ho mica detto che bisogna essere. Non ho mica detto. Vai a parlare del calcio, della Lazio. Va bene, per te sei un cazzo di coglione. E benissimo, sarò coglione. Presuntuoso. Ma che ne so? Lascialo parlare. Della provocazione. Sono froscio della provocazione. Presuntuoso può darsi. Presuntuoso può darsi. La prima cosa che hai detto qual è? Deve dire aspetta, la prima cosa che ho detto. No, lui lo dice in parli senso. Parli sempre di questa cosa. No, un gran coglione. No, io ne ho due. Ne ho due, però, di coglioni. Tu sei un gran coglione. No, però ne ho due. Io la Madonna. Ne ho due. La Madonna è un'entità. Un'entità. Ma lei sarebbe anche un religioso, magari. Però scusi. Se lei è una persona anche religiosa, come sembra, e si sente offeso, non ho capito che cosa. Perché usa questo disprezzo rispetto agli omosessuali? Usa questo. Cioè, che razza di cattolico è? Quale disprezzo? Usa la parola frocio. Ho già detto, che razza di uomo è lei? Ieri sera ha fatto un panegirico sulla parola frocio, che non era un'offesa. No, ma infatti non è affatto un'offesa, dipende come uno la usa. Io stasera lo chiamo frocio. Va bene, guarda, gli zigomi non mi offende. Non mi offende il fatto che lei dagli zigomi mi riconosco, mi classifichi come frocio. Non me ne importa nulla. Ciao Paolo, Luca, Modena, vai. Ciao Giuseppe. Dimmi. Intervengo non su quello che è stato regolamentato oggi, comunque di cui si sta discutendo, perché ritengo di non avere il diritto di interferire o giudicare persone che comunque a me non fanno alcun male. Però allora? Pensavo tra me e me che c'è, secondo me, un fattore che propizia un aumento della quantità degli omosessuali e del quoziente di omosessualità dei singoli. E sarebbe? Mi spiego meglio. Tante persone bevono l'acqua nelle bottiglie di plastica. E dunque? Sulle cui etichette sono contenute tante controindicazioni, ma se ne trascurano altre. Ovvero che passano sostanze nocive e vengono rilasciate nell'acqua, tra cui uno estrogeno, assimilabile all'ormone della femmina, che genera scompensi ormonali sia nelle persone di sesso femminile, sia in quelle del nostro sesso. Prepariamo ambulanze. Sono già partiti. Anche la polizia. Dovresti già sentire il sottofondo. Però io voglio dire una cosa, Luca. Eccola qua. Modena poi darà le sue coordinate. Perché no, ma è vicina, è già vicina, perché è già sul posto. Concordia sulla secchia, sono Luca del Letame. Luca del Letame, questa è una presa per il culo. No, Luca del Letame alla banca, sul quale tu hai twittato sul sito della Gazzetta di Mato, fantastico. Quando portate il letame alla banca San Paolo di Poggiorusco, che mi ha fregato con gli interessi passivi. Vabbè, ma quello può darsi che ti abbia fregato, e va bene così. Però voglio dire una cosa, Luca. Non ho capito perché attraverso le bottiglie di plastica o quello che è contenuto uno diventa omosessuale. Non ho capito. No, bene. Non ho detto che diventa. Ho detto che la tipologia della plastica, che è il classico PET, presenta controindicazioni che impongono una certa conservazione dell'acqua, che comunque può stare dentro fino a 2 anni, dunque? Come scadenza di legge. Dunque? Tra le cose che vengono rilasciate nell'acqua, non c'è nulla di benefico, ma solo sostanze nocive che possono portare degli scompensi che non dico che sfocino direttamente nell'omosessualità, ma la possono in qualche modo propiziare. Cioè dall'acqua all'omosessualità? Dalle sostanze che vengono rilasciate da questo PET, che non è certo né igienico né salutare, si può arrivare anche a questo. Capito, Parenzo? Quindi, abbiamo appreso qualcosa di più. Io direi di aumentare il numero, guarda, però, di volanti. Ci vuole anche forse la finanza, secondo scusa, me. Visto che il mio numero ce l'avete, mi puoi chiamare quando vuoi che possiamo anche approfondire. Ma anche no, grazie, c'ho altro da fare. Piuttosto approfondisco il trattato, il TTIP. No, no? Per carità, nemmeno piuttosto quello. Quello. No, meglio Luca da Modena. Meglio Luca da Modena. Ciao. Bitex, come state? Mario Adinolfi, in un giorno che penso consideri drammatico. Mario, come stai? Ciao, buonasera a tutti. Che giornata è per Mario Adinolfi? Cosa hai fatto per testimoniare la tua contrarietà, la tua, come dire, il tuo dramma, la tua... Hai detto che è addirittura un giorno vergognoso, mi sembra francamente esagerato, caro Mario. È il giorno della vergogna, sì, però c'è ancora una speranza. Noi abbiamo rivolto un appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Addirittura. Chi non firmi, ma perché non deve firmare? Come popolo della famiglia abbiamo chiesto che non firmi una legge palesemente incostituzionale. È un fine giurista, è stato membro della Corte Costituzionale. Ma perché dovrebbe essere incostituzionale? È un cattolico, perché è palesemente incostituzionale, perché evidentemente... Ah, cioè tu dici l'articolo sulla Costituzione, quello sulla famiglia, dici? Beh, certo, c'è quel piccolo particolare di un articolo sulla famiglia. Vabbè, ma quella è una roba ma dai, ma è una roba scritta nel 48, ma chi se ne fotte, dai, su. Pensi che non ci fosse l'omosessualità nel 48, i quasi costituenti non hanno... Intendevano la famiglia uomo-donna, non c'è scritto nella Costituzione. Non intendevano la famiglia. Ma sì, perché all'epoca. Sì, d'accordo. Ma Mario, perché all'epoca, come sai, si concepiva un solo tipo di famiglia. Comunque, nessuno oggi ha posto questa questione. Comunque, il popolo della famiglia rivolge un appello a Sergio Mattarella perché non firmi, da cattolico, prendendo esempio da Re Baldovino, che abdicò per un giorno pur di non firmare una normativa analoga. Scusa, secondo te, un presidente cattolico, in quanto cattolico, non dovrebbe firmare questa legge? Io penso che un presidente cattolico, in quanto cattolico, non dovrebbe firmare questa legge. Cioè, allora, non per la Costituzione, ma in quanto cattolico pure. Cioè, tutte e due insieme, dai. Unendo l'elemento di conoscenza della Costituzione, di ex giudice della Corte Costituzionale, che conosce perfettamente i lavori preparatori dell'articolo 29, conosce perfettamente i regolamenti parlamentari che sono stati platealmente violati. Con questa... Ma la fiducia è una cosa normale? Ma meno male si discute di questa cosa da 100 anni, Mario. Ma la fiducia è una legge di coscienza. Ma non è una legge di coscienza, scusami, successo, ma al di là non delle... è mai successo nella storia dei parlamenti mondiali. Ma sì, ma al di là della legge di coscienza tu metti il voto di non fiducia, mi dire che parli di fascismo come ha fatto padre Fanzani. Io parlo di quello che parlo. Ho detto che mai nella storia di tutti i parlamenti mondiali c'è stato un voto di fiducia su una legge di coscienza. Va bene, e se non è una legge di coscienza questa. Ma in Italia abbiamo discusso per anni e anni di queste cose qui. Adesso, giustamente, Giuseppe, il governo, dopo un po'. I numeri alla Camera per approvarla comunque, il voto di fiducia. Ma non volevano rottura di coglioni. È un oltraggio alla democrazia e ovviamente. Ma quale oltraggio alla democrazia? A parte che è previsto dal Parlamento, dunque non è un oltraggio. Sui voti di coscienza e sulla famiglia, anche qui sui ragionamenti parlamentari, basterebbe studiarlo. Qual è stato l'escamotage? Agganciare all'articolo 2 non all'articolo 29 la norma. Vabbè, ma adesso lasciamo e trattare così il voto di fiducia. Vabbè. Insomma, mi sembra che ci siano tutte le condizioni per cui il Presidente della Repubblica rinvia alle Camere una normativa con io non ho capito, tu hai detto anche che secondo te sarebbe meglio trasferirsi dello Stato del Vaticano, praticamente, a sentire quello che dice. No, non l'ho detto, però l'Italia sarebbe, se governasse... C'è una legislazione migliore il Vaticano su alcuni temi rispetto all'Italia? Non l'ho detto, no, te lo chiedo, anche una domanda. In Vaticano ci sono 3.000 abitanti, un po' diverso governare. No, ma se il Papa governasse l'Italia sarebbe meglio? Dipende dal Papa, insomma. Vabbè, questo Papa non governerebbe male, penso. Cioè, questo non Papa penso che questo Papa governerebbe peggio dell'attuale gruppo dirigente del paese. Sì, ma ho capito, ma il Vaticano è un paese dove non c'è democrazia, decide solo uno, il Papa viene eletto in un altro... Se la domanda è: preferisci la democrazia? La mia risposta è sì, preferisco la democrazia. Se la domanda è: questo Papa governerebbe meglio di questa classe dirigente? La risposta è sì, questo Papa governerebbe meglio di questa classe dirigente. Tu addirittura hai detto pure il clero è meglio della questa... è platealmente migliore. Il clero italiano è platealmente migliore di questo Papa. Oggi non è stato eletto da nessuno. Oggi c'è un signore a Crema, non so dove, che noi abbiamo tempo fa pizzicato con un finto Papa, un monsignore che ha dovuto risarcire per con i suoi un atti. Finto Papa? Sì, con il nostro finto Papa. Abbiamo pizzicato. Vabbè, no, ma per dire, no? Abbiamo per raccontare che su 106.000 sacerdoti religiosi ci sia qualcuno che non fa bene il suo mestiere, non penso che riguardi veramente la valutazione rispetto a quello che è. Beh, la pedofilia, il clero di questo paese. La pedofilia. Ma la pedofilia, Cruciani, perché? Che c'è la pedofilia? Se uno che sta c'è? Male, se uno è povero, se uno è un poveraccio, un padre separato lasciato per strada, sai dove bussa in questo paese? Solo alla parrocchia bussa, solo alla Caritas bussa. Questa è la verità. Sì, e i soldi, alla Caritas chi glieli dà? Sì, vabbè, d'accordo. Glieli diamo noi i soldi alla Caritas. È una supplenza colossale. Ma glieli diamo noi i soldi alla Caritas, però. È finanziato dallo Stato. Dietro 100 miliardi di renti di restituzione di quello che è in tipo di valore. Se non si facesse semplicemente tanti atti di gratitudine a quello che per te la pedofilia non è un problema, è un problema minore. Un problema minore. Certo che è un problema, ovviamente è un problema. Ah, è un enorme problema. Meno male, meno male che è un enorme problema. Io voglio capire una cosa, tu perché non fai uno sciopero della fame contro questa legge? Perché non devo far mica sceneggiate io. Vabbè, io sciopero della fame. Voi, non per fare sceneggiate. Vabbè, ma lo sciopero della fame è una cosa... Lo sciopero della fame è una Prossima domanda, vabbè, è una vecchia cosa, è una tecnica gandiana, radicale, non violenta. Non radicale, è una tecnica gandiana. Quanto sei dimagrito finora? 7,5 kg. Troppo poco, ma che? Perché 7,5 kg? Piano piano, ragazzi, ho fatto le liste, le firme, la battaglia sull'Unione Civile, adesso sono più libero, diciamo, e hanno sorteggiato quel mio posto sulla scheda elettorale a Roma. Ah, già, perché sei candidato sindaco, sì. Allora, 7,5 kg, ma per esempio, oggi, una tua dieta quotidiana, cosa mangi oggi? Oggi, perché sono a dieta, ho mangiato un solo cornetto, pensa un po'. Un cornetto non si mangia quando una dieta, lo dice Lemme di poter che uno si mangia il cornetto. Era ligneo, però era abbastanza ligneo, quindi non un cornetto la mattina, ma col cappuccino pure? Col cappuccino, sì. Cappuccino e cornetto perché la mattina. Perché partivo per la Sicilia, però se l'avete pranzo? Saltato. A pranzo niente, un po' di melanzane. Melanzane a pranzo? E stasera che mangerai? Non lo so, perché devo finire un convegno, non so quando finirò, mi sono staccato dal convegno in questo momento. No, ma così fa troppo male. Pesce il venerdì, però, spero. Rispetto ai 200 grammi di pasta pesce, che ti mangi. Il venerdì io faccio digiuno, il pesce lo mangio il giovedì, mercoledì faccio digiuno. Fai digiuno quello che dovrebbe fare tutti i cattolici, no? Sono un digiuno dedicato a Maria, ma insomma questo non... No, io non ho capito una cosa, una volta hai detto che quando mangiavi seriamente, mangiavi pure quanti grammi di pasta? Beh, più di 500 grammi. Al giorno? Come 500? Sì. Cioè a botta, quando tu ti siedi... 250? Anche 500 è una botta sola. Cioè mezzo chilo di pasta in una botta? Sì, ma cazzo, ma mezzo chilo di pasta? Non è possibile. Beh, i cornetti la mattina quanti? Potevo arrivare a 6. Sei cornetti. Ma non è vero, no, dai. Ma non ci credo, dai, Mario. È testimone Giuliano Ferrara, perché condividiamo il bar a testaccio, quindi potete chiedere a lui. Lui era molto sofferente perché per il diabete non poteva più consumare le stesse quantità. Lui è però un appassionato di supplì, più che altro. Lui adesso è diventato quasi virtuoso. Ma la gola è un peccato capitale, credo. Certamente, no? Ma io sono un peccatore come Ma lui ha sempre detto che è un peccatore. Dunque, sei cornetti. E un altro eccesso pazzesco che ha avuto, qual è stato? No, sono curioso. Un eccesso. No, un po' sono di... questi. Io, guarda, il mio eccesso sono molto banali: pane, pasta e pizza. E qualche lievito, questo è stato il problema. Cioè, a te, per esempio, a cena e a birra pure? No, non bevo, sono assente. Cioè, tipo la pizza, sei in grado di farti un paio di pizze a sera? Sei in grado? Di solito la pizza ne prendo uno solo, però magari la pizza bianca, quella romana, la mattina mi piace a profusione, diciamo. Se tua moglie chiede il divorzio, che pizza e cosa mangio? No, ma non ho capito, se tua moglie chiede il divorzio, che fai? Non lo concedo. No, non lo concedi? Non glielo concedo, dato sei costretto a concederlo per forza. Piace, vabbè, però adesso mi deve chiedere il divorzio con tutto il bene, insomma. Aspetta, fermo un attimo, ti devo domandare un'altra cosa, aspetta un secondo. Voglio più Zanzara e meno pubblicità. Allora ragazzi, sta cosa dell'unione gay, perché lui è un grande oppositore dell'unione gay, addirittura dice che... Io non capisco se è dietro di te... Ciaone, Mario. Come direbbe Carbone, ciaone bisogna oggi dire, su web oggi. C'è pure prenditela in quel posto, c'è di no, tutto, vabbè, c'è un giorno... No, oggi, ciaone ad Adinolfi. Oggi in particolare, tutti dai. Tutti i giorni, come sai, basta che metti il mio nome su internet, succede quello che a nessun altro sarebbe consentito. Ma secondo te, come dice padre Livio, c'è Satana dietro? Ecco, cioè, c'è Satana, c'è il maligno dietro, sì o no? Non puoi credere. C'è il male. Sì, io penso che il male esista. Ma no, il male. Dai, chi è il male? Ma che cos'è? Cioè, la Cirinna è il diavolo, che vuol dire? Io penso esistano dei segnali di imbarbarimento dei nostri tempi e che questi siano segnali del male. Il diavolo veste Cirinnà. Il diavolo veste Cirinnà. Non la trovo una cosa che tanto sconsiderata. Sì, ma ho capito, ma il male che cos'è? Perché è impersonato il male? C'è un nome e un cognome? Per chi crede, per chi crede, per chi crede nella Chiesa cattolica. Ma è come dire che c'è Otelma dietro, dai, su. Cioè, non è la stessa, guarda, caricaturizzare Padre Livio è un errore grave che fai, ma non è caricatura, un grande ascolto, ma chi dice di no, ma chi dice il contrario, fare il gioco della caricatura su Padre Livio è come fare il gioco della caricatura su te, si può fare, ma va benissimo, ma infatti infatti lo fanno, che senso c'ha? Ma no, senso, infatti, però ha senso, è ovvio che chi crede nella Chiesa e ha fede, crede che esista il male, e il male è dunque secondo te dietro dietro le unioni gay c'è il diavolo, dietro le unioni gay c'è il diavolo. Io dico ci sono delle azioni, dei segnali del diavolo. Non ho detto che esistono l'azione del male, si produce con anche legislazioni, come le legislazioni. Sì, ma da chi è impersonato il male? Cioè c'è un essere per chi crede ed è c'è il diavolo. La Chiesa cattolica esiste Satana, esatto. Esiste e secondo te c'è la mano, è la dottrina della Chiesa, e dunque dietro le unioni gay secondo te c'è anche Satana. Non detto questo, no, ma te lo chiedo, l'azione del male si esplica in tante cose, tante vie che sono imperscrutabili. Dalla mia valutazione, che non c'è anche Satana. La mia valutazione non mette Satana, è la valutazione che dice che la legge sulle unioni civili è una legge sbagliata, quindi è azione del male. Però è dunque azione del male, ma perché tu dici porta all'eutanasia, alla droga libera, all'utero in affitto? Che cazzo c'entra? Perché se tu trasformi le persone in così, come tu e Parenzo un figlio non lo potete fare, avete bisogno di un utero, dovete comprare un bambino per averlo. Ma comprare, diciamo, chiedere a qualcuno, pagare qualcuno, sì, comprare, sì. 60.000 euro per comprare un bambino. Anche meno, anche meno. Certo, se vai in India a sfruttare qualche schiava. No, anche in Ucraina. Certo, con queste cifre tu prendi quel bambino e trasformi in una cosa, perché lo in un bambino commetti come da cosa lo capisci che se quel bambino, ma che quel c'entra questo con l'unione gay approvate, quel bambino non lo prende, poi che c'entra l'unione gay, serve a fare l'omogenitorialità, ma non è detto lo giudice che ha fatto il suo bravo bambino e la droga libera la droga libera che c'entra. Ma secondo me dire che la libertà è nel drogarsi, io ho una figlia di 20 anni. Ma che c'entra con la questione dell'unione gay? Non c'entra nulla. Se tu pensi che le cose non abbiano un criterio. Cioè, quando dici sono consentite, qualsiasi cosa va bene tutto. Insomma, tu parti da una valutazione. No, ma non è così, dai. Ma non, poi, è così. L'eutanasia, poi tu dici se tutto è consentito, allora è consentita pure la droga libera e l'eutanasia. Ma questo visto l'eutanasia, che tipo di cifre ha in Olanda in questo momento? A parte che io sono a favore, per cui sai. Sono 50.000 morti. Ma quando tu hai 50.000 morti, secondo te veramente gente che sarebbe morta lo stesso, dai. Gente che sarebbe morta lo stesso, si evita la sofferenza, dai, si evita la sofferenza. Presto quando diventi qualcosa di improduttivo. Ma perché volete la sofferenza? Perché volete la sofferenza? Perché volete la sofferenza? In Olanda puoi benissimo chiedere l'eutanasia senza nessuna sofferenza. Ma se uno vuole crepare, ma perché non può crepare tranquillamente? Invece di ammazzarsi c'è uno che ti fa una punturina e basta, società, no? Questa bella società della cultura della morte, in cui però poi dopo non ti devi lamentare se c'è un romano che nasce e due romani che muoiono nella mia città, per esempio. Con questi dati statistici, con la cultura dell'aborto, la cultura della morte, tu costruisci una società. Io che sono muore, a favore dell'eliminazione dei medici abortisti. I medici abortisti che vanno contro la legge andrebbero cacciati dall'ordine dei medici. No, ma si chiamano obiettori. Obiettori, quello che è, dai. Antiabortisti, scusa. Se tutti fossero antiabortisti, verrebbe meno un diritto che è sancito. Io, infatti, spero che la legge 194 sia cancellata. Okay. Ma tu che c'è? Tu sei contro l'aborto? Vabbè. Senti, ti vuole dire una cosa una mia ascoltatrice, che è Beatrice da Firenze, che è una transessuale. Vediamo cosa ha da dire. Beatrice, dimmi. Come godo, amore mio, tesoro, amica mia, oggi stai godendo, stai godendo oggi. Godo, oggi dedico da buona toscana una super cazzola grandissima con scappellamento a destra al nostro caro Adinolfi, al nostro caro Buonanno, al nostro caro... Cioè oggi godi. Tutti oggi godono a morire. Oggi godi. Godono a morire, Peppino, perché quelle persone, quella persona che hai davanti... Non ce l'ho davanti, è in collegamento. Collegamento, allora. Quella persona che è collegata è una delle tante persone che ci creano sofferenza, a me no, io sono ormai a 50 anni, queste persone mi entrano da una parte, mi entrano dall'altra. Sofferenza, diritti legati. Che ha tentato il suicidio perché adesso attribuisce a Dadi Nolfi, vengono accettate. Attribuisce a Dadi Nolfi la responsabilità del suicidio delle persone, dai. Il bigottismo, certo, certo. Il bigottismo è la rovina, è la rovina. Mario, come rispondi? Non ti devo difendere io, Mario. È la rovina dell'Italia. Ma che devo rispondere? Il dato di fatto è che lo stanno bene con una legge pasticciata per tiro dal loro. Ma questo che c'entra? Lei sta dicendo un'altra cosa, che tu istighi al suicidio. Sta dicendo che stupidaggini totali, che posso discutere su un piano del genere? Ovviamente non posso discutere, dovrei discutere. Scusa, con gente che fa 2000 messaggi di insulti. Se te mi dici che sono una malata psichica, te dici che le transessuali sono malate psichiche. A me, a mia moglie e a mia figlia, da aspetta. Che sono una malata psichica, io posso essere forte abbastanza da farti una pernacchia. No, aspetta un attimo. Ma ci sono dei ragazzi che invece questa forza non ce l'hanno. Ma quando l'ha detto? Quando l'ha detto? Quando l'ha detto? L'hai detto, voglio se lo dico, lo dicano tutti. Certo. Lo dicono tutti, sempre così parlate, senza sapere di cosa state davvero parlando. Ma cosa? Aspetta, aspetta, Mario. La transessuale, senza cosa dovrebbe niente, fare per te? Che cos'è una transessuale? Nulla. Cosa dovrebbe fare? Dimmi, cosa dovrebbe fare una transessuale? Perdere, no, sta dicendo che cosa è per te una transessuale, dimmi. Ogni punto del giorno della mia vita state lì a insultare me, mia moglie, mia figlia. Tutti io i giorni della mia vita, moglie, siete violenti, vergognosamente insulto la tua intelligenza, avete la tua che mia figlia deve pendolare da un cappio. Mia figlia da 5 anni, l'avete scritto su una vostra testata, che mia figlia deve pendolare da un cappio. E ancora venite a parlare a me, ancora avete coraggio di venire a parlare a me. Io i figli non li tocco e non ho mai detto nulla, non venire a dire a me, non tirate la frittata su queste cose. Io sto parlando della giorno tua intelligenza, vergognatevi, della tua intelligenza, perché non siete altro che violenti, questo siete. Allora, la reazione di Mario deriva dal fatto che lui esprime le sue idee, che secondo Beatrice sono però idee omofobe, violente, eccetera, eccetera, e le idee che secondo me invece sono semplicemente idee che vanno combattute, secondo me, con la dialettica, e esprimendo queste idee gli arrivano messaggi di insulti molto pesanti. Migliaia al giorno! Migliaia. Però tu che l'hai detta quella cosa sui transessuali o no? Che ma sono mai malati psichici. Trovatemi il punto virgolettato. Trovatemi un cavolo di punto virgolettato. E che cosa sono i transessuali? Persone come Beatrice, che cosa sono secondo te? Transessuali? Sono persone come tutti. Se mi chiedete se devono sposarsi e poter fare qualsiasi cosa, andare nella scuola di mia figlia a insegnare transessualità, io dico no, come diresti no tu, Giuseppe Cruciani, se vanno nella scuola di tua figlia. Ma chi insegna la transessualità? No. Nessuno insegna la transessualità. Con i corsi gender dentro le scuole. Ma non succede mai. Comunque insegnare che esistono che esistono omosessuali non mi sembra una cosa, anzi mi sembra un'educazione alla diversità. Ma no, ma che c'entra? Adesso questa è un'altra cosa, dai. No, io voglio capire una cosa. Tu però hai un'idea di che cosa sono i transessuali? Come genere? Che cosa sono? Ma certo, che ho perfettamente presente. Una volta hai detto che erano malati. Hai detto che erano persone. Non ho mai detto che sono malati. Mi dovete trovare i virgolettati. Beatrice, dove l'hai letta sta cosa? Mai, Beatrice, dove l'hai letta? Mai. Basta andare a un incontro, a un qualsiasi incontro dove è presente il signor Adinolfi. Sì, come no. Parlano Come ti chiami? Hai coraggio adesso. Beatrice Ulmi. Sui documenti che c'è scritto? Beatrice Ulmi? Sì, certo. E stai affermando che io nelle mie teorie dico che i transessuali sono malati nei miei convegni dove sto facendo una adesso. Sono guarda, malati psichici. Stai affermando questo. Malati psichici. Negli incontri che vengono fatti nelle parrocchie. Stai dicendo che io ho questo. Affermato che sono malati psichici, Beatrice Ulmi? Stai affermando questo? Beh, ha detto questo prima. Stai affermando questo? Stai affermando questo? Che io vado negli incontri e dico che siete malati psichici? Assolutamente sì. Benissimo, ci troviamo in tribunale, Beatrice. Trovami il punto in cui lo dichiaro. Ti giuro, trovamelo. Perché ti giuro che andiamo a discutere davanti a un giudice adesso. Va bene, Beatrice. Volentieri. Io sarò difesa perché... dagli avvocati. Ti giuro che stai difesa da tutte le associazioni che vuoi e ti pagheranno gli avvocati. Spiegami una cosa, perché volevi spernare. Io ho detto questa cosa. Ho capito, adesso questo qua lo troverà. Beatrice, dimmi perché troverà. Perché volevi. Hai detto che qua... non lo sa. Leggo, vuole... non ha la minima idea di quello che vuole spernacchiare i cattolici. Che volevi. Che... minima idea. Va bene, aspetta, Mario. Che volevi fare? Volevi spernacchiare di Nolfi? Che volevi fare? Sì, l'ho detto prima. Una supercazzola mega galattica. Ce la fai, i miei amici cattolici. Ma falla pernacchia, però, se la vuoi. Falla. Io non volevo dire che la doveva fare. Fatto così. Ciao la Mario, gente, ciao, la ciao, gente ciao. Ci prende la lettera, purtroppo. Brucida. Ah, stronzo, Cruciani, l'unico ginecologo che non doveva fare il suo lavoro e non farti nascere era quello tuo. Sempre molto carini alcuni ascoltatori, ma è giusto così. Se avete qualcosa da esprimere, se avete qualcosa da dire, se ci volete tirare le pietre, se ci volete insultare, se volete raccontare le vostre storie private, se volete raccontare le vostre emozioni, se volete raccontare le vostre perversioni, se volete raccontare le vostre manie, se volete raccontare un pezzo della vostra vita, dovete fare solo una cosa, solo una cosa. Zanzarosi, contattateci all'800 24 00 24 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Vito da Roma, vai! Eccomi qua. Allora, l'ascoltatore che avete preso un po' per i fondelli, in effetti ha molta ragione. Cioè, quale ascoltatore? Guarda, cioè, sono intervenuti tanti ascoltatori. Quello diceva che le bottiglie di plastica possono aiutare, possono, diciamo, coadiuvare un processo di femminizzazione. Perché in effetti il polietilene tafflato, questo è il nome tecnico, ragazzi, un po' brutto. Però, ragazzi, se mi volete far passare l'idea, sì, ma d'accordo, ma se mi volete far passare l'idea che alcuni elementi che sono presenti all'interno dell'acqua possono aiutare, non so quale processo di femminizzazione, femminilizzazione, ragazzi, dell'uomo. Dai, ma di cosa stiamo parlando? Dai, su. Va bene, allora, guarda, io ti consiglio di fare una capatina su Wikipedia, dove Wikipedia trovi, sì, allora? Sì, vabbè. Trovi, vabbè, ci siamo capiti, no? Xenoestrogeni, xeno come cose, sì, ma d'accordo, ma ragazzi, ma di cosa parliamo? Se volete veramente, veramente mi volete far credere che all'interno dell'acqua io non voglio far credere niente. Io ti dico, questa è una ricerca condotta in via definitiva da due ricercatori dell'Istituto Superiore della Sanità di Francoforte, che nel 2009, non ieri, ma da tempo, però ovviamente questo l'industria, col cavolo che ve lo fa sapere, no, in realtà questo è presente in maniera, in dosi massicce, non tanto nel... In che cosa? Dove? Traccia. Dove è presente? I xenoestrogeni sono presenti in maniera massiccia negli shampoo, nei cosmetici, stanno presenti dove ci sono elementi derivati dal petrolio, per lo più. Va bene. Questo è quello che tu trovi. Siamo tutti, guarda, dopo l'intervento tuo e quello di un altro ascoltatore, sono francamente molto preoccupato. te lo dico seriamente, cioè non me ne frega nulla, assolutamente. Nell'acqua non c'è nessun elemento che può provocare una trasformazione di Giuseppe Cruciani in una femmina. Più una Tania, meno Parenzo. Più una Tania, meno Parenzo. Traffico. Ragazzi, io veramente non credevo che esistessero ancora quelli che alle stazioni di servizio dell'autostrada facessero i trucchi per fotterti i soldi. E non è quello che ho scoperto l'altro giorno, quando è arrivata la notizia che hanno praticamente catturato, sgominato la banda dei campanellari. Una roba da Totò, dai. Una roba pazzesca, cioè fregavano i passanti, i malcapitati, gli avventori, gli automobilisti. Sai, con quel gioco della pallina, delle tre campanelle, cioè facevano 70.000 euro al mese. Beh, è poco, eh. 70.000 al mese. Sì, 70.000 al mese. Io passo sempre in quell'area di servizio che è stata al centro delle indagini, che credo che sia Sillaro o Sillaro, non so come cazzo si pronuncia. Ma ancora esistono? Ma chi si ferma? Questi qua andrebbero, a questi qua andrebbe fatto un monumento, secondo me. Perché questa roba qui è come Vanna Marchi. È esattamente la stessa cosa. Cioè, chi si ferma a fare questo gioco delle, della pallina con le tre cose? È un coglione. Dunque, io assolverei questi qua. Andrebbero assolutamente assolti e condannati per coglioneria. Condonati per coglioneria quelli che si fermano. Cioè, ma chi è oggi che si, ti vai all'area di servizio? Ho capito, ma c'è tanta gente, dai, amico mio, ma come cazzo si fa? Dai. Che magari spera di guadagnare due lirette. Ma no, dai, ma come si fa a fare una cosa del genere? Dai, su, fermarti là dove questi qua giocano al gioco delle tre palline a giocarci dei soldi. Ma devi essere un coglione, vai condannato per coglioneria, per stupidaggine. Ho capito, però. Dai, ma questi qua invece vanno assolti perché hanno fottuto dei coglioni che si sono avvicinati loro. Si sono avvicinati, non, qui lì non c'è nemmeno la televisione. E tu dici: scanalo la truffa. No, scanalo la televisione, incontro Vanna Marchi e la figlia che vendono delle cose e che, no, che approfittano di una, dei creduloni. D'accordo, ci può stare il fatto che tu poi si potrebbe discutere. Beh, però una truffa è truffa, dai, ma non sì, è che si discute per molto. Carità. Sarà anche truffa, ma tu che ti fermi a fare il gioco delle tre campanelline, ma sarai coglione o no? Beh, sì, sicuramente. Dai, su, diciamola, cioè, tutta. Questo è senza dubbio. Sei più coglione tu o chi ti fotte? Cioè, sei sicuramente più sei più stupido per questo, dai, c'è su, non c'è dubbio. Basta. Però la gente ha bisogno, vabbè, di essere che, tutelata. Prova a pensare un Mauro da Mantova qualunque. Con ma quel il suo Mauro da Mantova non si fermerebbe con quel mai. Suo quoziente intellettivo che ha, che è lo zero, che viene usato come cavia nei laboratori per capire ma come, non è vero, come si dai, arriva su al livello più basso della scala dell'intelligenza umana. Dai. Ecco, io dico, tuteliamo i Mauro da Mantova presenti in Italia. Ma secondo te che cosa ne pensa Sgarbone della cosa? Io lo chiamerei, Sgarbone sulla nuova legge, sì, sui gay, sulle unioni civili. Ma al contrario. Secondo me non è molto d'accordo. Vediamo un po' se riusciamo a pizzicarlo, eh. Vediamo un po'. Aspetta che facciamo il numero, aspetta. Vittorio, dove sei? Sto andando a Lanciano. A Lanciano? Da Firenze, sì. Bravo. Da Firenze a Lanciano, come al solito, in giro per l'Italia. Sì. Poi ti senti male, devi fare i controlli in ospedale, mamma mia. Ma quando finirà sto cazzo di vita così? Adesso, quando mi danno la zanzara, sarò fermo come sì. Te. Senti, ma anche per te oggi è un giorno di festa con l'approvazione della legge sulle unioni gay? Io sono contro ogni unione, per cui trovo che sia il momento più basso della democrazia. L'idea di esaltare come un diritto sì. Un contratto. Cioè, il Parlamento fa dei contratti, sì. Ma i diritti sono individuali. Cioè, uno, se vuole, fa quello che gli fa, non va a formalizzare, non ha testimoni, non va dal sindaco, non va dai preti. La dannazione del mondo è la burocrazia, le amministrazioni comunali, sì, la religione. Sì, sì. E due si inculino. Che diritti vogliono solo incularsi? No, no, sai, la pensione, altre cose. Sì, allora, appunto, ma se uno deve pensare che i rapporti amorosi finiscono in pensione, in cimiteri e in ospedali, è una cosa che fa. Cioè, se voi due vi trovate in condizione di malessere, tu vai all'ospedale, qui ci vado io. Parenzo ti viene a trovare, si occupa di te, c'è bisogno che ci sia la legge. No, io impone. No. E le palle sul fatto che occorre l'assistenza di due che stanno insieme sono una miserabile riproduzione della coppia piccolo borghese che ha rovinato il mondo con le famiglie, che sono il punto più orribile della concentrazione di violenza che viene quando un marito uccide la moglie uccide il marito. Sì, uccide sì, ma sì. Come? Ma tu hai avuto una famiglia coppia, tradizionalissima, scusa, perché era un'altra epoca. Cioè la famiglia, tu dici, è il punto più basso. Bisogna distruggere la famiglia, fare un referendum contro la famiglia e contro il matrimonio e restituire agli individui la propria libertà. Io sono d'accordo con Vittorio, io devo dire la verità, sono d'accordo, al contrario di Parenzo in questo caso sono d'accordo con Vittorio, prima o poi si arriverà alla distruzione della famiglia. E poi diventa una fregatura, perché vi sposate in due, è benissimo, ma si separa uno che è quello che non vuole più stare insieme all'altro. Sì. Se il matrimonio è consensuale e la separazione no, vuol dire che la separazione crea una ferita che è quella per cui tu torni a essere individuo con perdite, lasciando case, alimenti, rotture di coglioni, ma che roba è? Ma scusa, ma, per, perché l'umanità della famiglia e vanno a fare il culo. Ma perché allora, perché allora tutte queste associazioni gay, io credo più le associazioni gay dei gay vogliono, vogliono questo, queste unioni, il matrimonio, eccetera, eccetera. E sono masochisti probabilmente, cioè non vogliono avere, siccome hanno avuto anni di ghetto, finalmente avere la legittimazione, che è una logica anche umanamente comprensibile. Ma perché cosa? Per andare a spiaccicarsi contro un muro? Cioè qualunque persona sposata e almeno la metà dei matrimoni finiscono in divorzio. E chiunque sia sposato sa che è un'inculata. Capisco che la mia battuta famosa e forse l'inculata è quella che li ispira. Ma l'idea che due, fra tre, quattro, cinque anni, ordino individui, non è una cosa che non lascia tracce, perché impone questioni di alimenti, appunto le pensioni nella distanza lunga, la casa, ma che roba è? Cioè, l'amore è amarsi. Ma se ci si lascia si deve regolamentare come ci si lascia. Ma perché? No? Ma perché se io dovessi lasciare la donna che sta con me devo darle qualcosa? Ma sarà libera, lavorerà, sarà indipendente. La parte debole, è una cosa antimoderna questa cosa qua. Ma totalmente assurda, cioè tu abbandoni la Zevi e devi mantenerla. Ah, manterrai il tuo figlio, se mai. E sarete insieme a mantenerlo. E se lavori, no? Ho capito, ma se io... Vogliono il lavoro, vogliono i soldi. Vogliono la casa e non solo la moglie, adesso anche il moglie. Il moglie. Io devo, lavori, vado a fare in culo. È così, la regolamento. Abbiamo liberato il sesso per imprigionarlo in un matrimonio dentro il buco del culo. Ma che roba è? No, ma ha ragione Vittorio su questo, dai. La regolarizzazione dei rapporti. Tanto due curi non possono fare figli. Non c'è neanche il problema del figlio. Devono andarselo a cercare come il nostro Vendola. Ma che roba è? Due culi sono il massimo, individui che devono essere liberi. Ma non si può dire che... Sì, però è vero. È un diritto falso, i diritti sono individuali. C'è un sacco di gente in piazza, a Roma, che esulta con le bandiere arcobaleno. No, ma forse, ma esulteranno, lo prendono nel culo, veramente si rendono conto che hanno esultato per l'anima del cazzo. La roba da pace. Ma te immagini Pasolini sposato, Oscar Wilde sposato, Proust sposato, Socrate sposato, Platone sposato col suo ometto, ma se lo incula e basta, fine, è il massimo, è meraviglioso, è sublime, è il sesso più alto, la famiglia è fatta per i figli, ma una persona avveduta che si sposa, maschio con femmina, maschio con maschio, è un pazzo, dobbiamo aiutarlo a fargli capire che non è che deve darvi al culo quattro volte, basta una. Vittorio, voglio chiederti una cosa, a Bari i giudici, quelli del processo a Berlusconi, hanno nelle motivazioni, hanno scritto questa cosa incredibile: le cene di Berlusconi poco eleganti e con ragazze che volevano svoltare. La seconda parte è vera, cioè è chiaro che c'è una motivazione profonda, che sì, ogni certo, vero e buon rapporto, le ragazze volevano svoltare. Cioè, il rapporto disinteressato è un'altra puttanata. Uno che è disinteressato va a far culo. Il rapporto è interessato, lui poteva dare un posto in televisione, una parte da qualche parte. Se vogliono mettere in discussione la storia dell'umanità, c'è una donna che va con un uomo ricco e una prostituta, ma sono dei pazzi. Vanno arrestati, perché il giure ha dei limiti che non possono essere superati dalla logica dell'esistenza dell'uomo. Ma uno può mettere sotto processo il fatto che Tarantino portava delle mignotte a Berlusconi o delle ragazze a Berlusconi che volevano farsi notare da Berlusconi. Ma perché il reato è sfruttamento della prostituzione? Ma quale sfruttamento di prostituzione? Cambiate il reato. Ma allora c'erano quattro ragazze che volevano ottenere qualcosa da Berlusconi e Tarantino gliele portava. Qual è il reato? Ma di che parliamo? Dai, su. È un'altra follia. Se interrompo me possono chiedermi delle scene eleganti e li mando a fare il culo dicendo voi non sapete che cosa voglio dire, parola elegante. Che è successo? La linea come al solito, mamma mia, sempre in giro. Poi dice che sta male, l'ospedale, il cuore, dai. E Pasolini? Ma ve lo immaginate Pasolini sposato? E Pasolini? E Oscar Wilde? Ma perché era frocio Oscar Wilde? Sì. Beh, direi. Sì, era molto frocio. Di Dorian Gray. Sì. È vero, Oscar Wilde era frocio, ma non era, magari era bisex. No, era frocio. Era solo frocio, no, io me lo ricordo come bisex, però il signor Oscar Wilde era a voile a vapore. Sì, ma no, ma secondo me era voile a vapore. Il ritratto di Dorian Gray ma non era sì, ma d'accordo, ma non era solamente omosessuale, dai. Vabbè, allora non era omosessuale. No, era, ma è anche era omosessuale, dai. Ma andava pure con le donne, o no? Ma adesso non c'ero io all'epoca, quindi non ma so. Che cazzo c'entra, dai. Luis Arezzo, vai. La Luis c'è. No. Sì, buonasera signor. Sì, lui, signor. Ma che cavolo, come ti chiami? Luis, vai, Luis, dimmi. È francese, lui. Okay. Lui, vai. Io vorrei dire la mia cortesia su questo rapporto, cosa di Unioni Gay. Ma tu che sei, senegalese, che sei? Cosa d'Avorio? Costa d'Avorio, ma voi avete la minchia nera come quella di Amadeus? Tu hai, tu minchia nera sicuro ce l'hai. Quanto no, avere tu la... minchia nera? È vero che, ma come dici, devi parlare quanto avere tu? Ma perché no, devi no, parlare con mi, mi, mi sono migrante. collegato ma alla no, vicenda ma perché Amadeus. Devi dire quanto avere tu bubu minchia nera? Ma è una roba che neanche Cristian De Sica lui ride. Ma sì, certo, no, che ride perché, no, perché è un migrante con senso dell'umorismo. No, no, vorrei dire che è una legge sbagliata. Sì, però scusa, andiamo alla domanda iniziale. È vero o no, come dice Amadeus, che minchia nera vuol dire minchia lunga? Ragazzi, non l'ho detto io, l'ha detto Amadeus sulla Rai, su Rai 1, su Rai 1, su Rai 1. Allora lui, dai. Ma se non ha misurato quello bianco? Eh? Se non ha misurato quello bianco? No, ma voglio dire, io voglio capire una cosa. Lui, Arezzo, non corrompere la purezza del migrante. Che... testimonianza diretta, personale. Diretta personale delle tue dimensioni notevoli diverse agli altri rispetto agli altri, sì o no? Ma se non ho messo gli altri, come faccio a fare un confronto? Hai ragione. Non puoi farlo. Fermo un attimo. Prenda atto che ormai è tutto finito. Cruciani, ieri ho messo in pratica i consigli del sessuologo. Minima penetrazione, massima estrazione. Siamo al top. Amici Cruciani, ieri ho applicato la regola del sessuologo, ma al contrario, cioè massima penetrazione, minima estrazione. C'era la tipa che starrazzava come una gallina isterica. Al top, siamo al top. Mamma mia, ragazzi. Allora, cioè... guarda, mi scrive la mia mamma e dice: Oscar Wilde è stato processato per omosessualità, ha passato 2 anni in prigione, sì. Poi è andato in Francia, autoesiliandosi e morendo poco dopo solo in povertà. Sì, no, no, no, ma questo qua, questa d'accordo. È la mia mamma che, insomma... vabbè. Sì, d'accordo, però pare che abbia avuto anche diversi interessi femminili ed è stato sposato, dunque non era proprio 100% gay. Vabbè, comunque sti cazzi, Oscar Wilde è morto, che ci frega. Diego da Bergamo, vai Diego. No, chi c'è? Chi c'è? No, eravamo con lui da Arezzo, sì, lui da Arezzo, sì. Aspetta, Diego, adesso arrivo, Vai. Lui, Arezzo. Sì, grazie. Volevo dire che è una legge sbagliata perché come cristiano... in conformità alla Bibbia, un uomo non può andare con un altro uomo. Il peccato c'è sempre, sì. C'è sempre stato, sì. Però ufficializzare il peccato, sì. Questo è molto sbagliato. Cioè tu dici, perché dalla quando... costa, from Costa d'Avorio, come in Africa, in molti paesi, l'omosessualità è addirittura un reato. Cioè, secondo te è un peccato essere gay? No, no, è un peccato in conformità alla Bibbia. Ma in conformità alla Bibbia di cosa? Ma comunque tu, sì, secondo te andrebbero che cosa bisogna fare? Che cosa bisogna fare con i gay? Arrestarli? Cosa fare? No, no, no, non arrestarli. Guarirli. Levitico 18:22. Il Levitico, la Bibbia, sì, è chiara. Sì. Levitico 18:22. È d'accordo. Poi la allora per fortuna non... sì, ma per adesso... fortuna lui, per fortuna ci sono le leggi dello Stato che sono diverse da quelle delle leggi della religione. Oh, beh, allora ufficializzarlo è grave. È grave, ma allora non ho capito, per te cosa va fatto con un gay? Cioè con le coppie gay cosa vanno fatte? Se uno è gay, cosa va? Va curato, va accolto, va messo in una comunità, messo al confine, cosa bisogna fare? Allora, dobbiamo amarli perché sono persone come noi. Però, sì, ti credo, certo. aiutarli a fare cosa? A vivere in questo peccato da... Vedi, gli immigrati dalla Costa d'Avorio. Secondo te il paese è caduto in mano al demonio? No, non siamo più lontano. Non siamo lontani dal demonio. Vedi, i tuoi amici immigrati dalla Costa d'Avorio. I tuoi amici immigrati dalla Costa d'Avorio. Ciao, Diego, sì. Bergamo, Diego, vai. Non mai risposto sulla... lui non mai risposto sulla minchia nera, quella di Amadeus. Che deve dire? Diego, Bergamo, vai. Ascolta, sentendoti te, no, quando parlavi di quelli che giocano le macchinette, che sono tonti, sì, che sono stupidi, sì, mi è venuto in mente quando hanno fregato me. Stiamo parlando di 20 anni fa, no? Sei un coglione, però sei stato un coglione all'epoca. No, ma forse, finire, sennò... forse 20 anni fa, scusami Diego, 20 anni fa no, ma oggi sì. Cioè 20 anni fa magari non c'era molta informazione. Costa, no, no, io ce l'avevo l'informazione, lavoravo sull'autostrada. Lì, e allora come hai fatto a farti fottere? Ero lontano, distanza di sicurezza, e dicevo cazzo, quelli come sono coglioni. Ti vengono addosso in 3-4. Uno ti parla a destra, l'altro ti tocca, l'altro ti parla a sinistra, te non capisci un cazzo, ti portano vicino al gioco, ti fanno puntare, lasciami finire. Ma che ti fanno? Se uno non tira fuori i soldi come fanno a farti puntare? Dai, su. Cioè non è che ti costringono, ti inducono. Fidati, mica te sto... Ma ho capito, ti inducono, Diego, ma se uno non vuole non gioca, se uno vuole i soldi non li tira fuori. Mi hanno prelevato da 6-7 metri, mentre stavo pensando quello che hai detto tu, hai capito? E mi hanno fatto puntare tutti i soldi. Quando poi io sono andato via, perché poi quando vedono che tu non hai più soldi... Ma Diego, ma uno non è che ti hanno preso il portafoglio e ti hanno tirato fuori 50 euro, dai, su! Mi hanno fatto, però, cioè, ascoltandoti a parlare, sai cosa mi viene a pensare? Mi viene a pensare, dovresti trovarti. Ma no, Diego, ti assicuro che se io vedo tre piazzati con una bancarella con tre campanelline di fronte a un'area di servizio o di fronte a un autogrill, la prima cosa che faccio è chiamare i carabinieri. La prima cosa che faccio. Giusto, la seconda è sicuramente non mi avvicino. E se qualcuno si avvicina a me, li mando a fare in culo. Chiaro, per cui di che stiamo parlando? Dai. Adesso che hai 50 anni, quando ne hai 20. Ma no, ma quando ne hai 20 uguale, sì, maggior ragione. È vero, però dai, qualcuno su. È ingenuo e ci può cascare. Io posso capire 30 anni fa che non ci si poteva. Diciamola chiara, quelli si fregano, i ragazzini, come nel mio caso, si fregano il turista della domenica che non è abituato. Ho capito, ma se tu ti avvicini a tre signori che hanno la campanellina e che ti dicono di tirare fuori da 50 euro per scommetto, ma si avvicinano loro, è la stessa cosa se si avvicinano loro, lo capisco, ma li mandi a fare in culo. Se uno si avvicina a me e dice vuoi giocare, ma tu chi sei? Dico, che sei delle agenzie di scommesse, chi rappresenti? No, abbiamo un banchettino con tre campanelline, con tre campanelline e una pallina nera, amico mio, tre campanelline e una pallina nera, chiamo i carabinieri e ti faccio arrestare. La prima cosa che mi viene in mente, i coglioni, gli imbecilli, gli ingenui, ma gli ingenui inconsapevoli, ma in questo caso ancora più colpevoli, si avvicinano e tirano fuori la 20, la 50 euro e allora la prendete in quel posto. Allora, per la lista Giachetti, anzi con Giachetti, lista laici, civici, socialisti, una rosa per Roma, Alessia Rossini, titolare di un club privé a Roma, bad romance e pure trans, ce le ha tutte! Alessia! Alessia, siamo qui! Allora, buongiorno a tutti! Sulla carta d'identità, veramente sera, buonasera, però, sono le 20:43, però va bene uguale. Allora, Alessia, tu sulla carta d'identità c'è scritto Alessandro, sì, giusto? Sì, a voi ti aggiunto una nuova zanzara, ragazzi. Questa io sono una zanzara politica, per cui insomma dovremmo andare d'accordo. Vediamo chi è la tigre da noi. Beh, adesso questa te l'hai ripreparata. Sulla ho sentito un po' di parolacce. Ti ma quello quasi sempre si può utilizzare quello che vuoi, basta che viene naturale, però non deve essere forzato. Allora Alessia, tu sulla carta d'identità che c'è scritto Alessandro? Sì, Alessandro, cioè tu no, hai fatto il passaggio, cioè hai come dire, hai operato hai fatto l'operazione, il taglio, eccetera. No, ci intendo a sottolineare che il passaggio è il riconoscimento sociale, poi quello che uno c'ha dentro le mutande, però miei. Diccelo, cioè, hai ragione, ma no, sono affari miei, è una perché cosa vuoi personale. Frugare nelle mutande, ho capito, della perché signora. Tu dici puoi fare il passaggio a anche senza persone, no, a me le persone mi riconoscono socialmente come donna e per sei cui donna alla fine hai fatto il passaggio con ufficiale, diciamo. Ma no, evidentemente no, non te lo no, sta dicendo, lei passaggio... ti dice che se il riconoscimento sociale è più importante della tua mano che vuoi mettere metaforicamente nelle sue mutandine. Ma se uno dice che è trans, c'è poco da fare. Cioè... No, a me mi dicono sono una persona, principalmente. Vabbè, non ma d'accordo, a me trans. Non lo dico in senso negativo, Alessia. No, io invece te lo dico in senso positivo, sono una persona. Vabbè, e sei una persona. Ho sentimenti, esperienze, storia, cultura. Ma questo come tu lei, dici? Signora, allora, ha un club privé a Roma? Sì, Roma è la città più bella del mondo. Sì, ma il club privé è un club per scambisti? Non è per scambisti, è per coppie libere. Per coppie libere, cioè scambisti, insomma, in pratica. Cioè scambisti no, per... libertine. No, scambismo libertine. Libertine. Non mi piace. Libertine. Persone libere. Persone libere. Persone libere, diciamo, si pratica all'interno di questo locale, si ma pratica anche del sesso. Ma allora, se vogliamo parlare del bad romance, facciamo una puntata appositamente. Se vogliamo parlare di politica, sono qui presente. Allora, Roma è una Alessia, capitale che cara, ha fatto cara, del mondo. Cara Alessia, c'è una regola molto semplice in questo luogo, in questo posto, chiamasi Zanzara. che sì, gli argomenti e i temi di discussione li scelgono il signor Cruciani e il signor Parenzo. Ecco, se io ti chiedo una cosa sul risposte, se io ti chiedo io che risposte, se, decido che cosa rispondere. Ma no, ma tu puoi rispondere, no, come però ti, fa parte come ti del pare suo vissuto. Però se ci vuoi esperienza parlare di che cosa tu pensi di Roma, noi non ce ne può fregare di meno. La cosa che ci interessa sapere è il fatto che ma io penso che ai cittadini invece interessi più Roma, sì, che il bad romance. Beh, io non lo so, invece a me, secondo me ai cittadini interessa il bad romance. Allora, la cosa che vorrei capire è se questo, se in questo club, ma io adoro questo tipo di situazioni, adoro questo tipo di mestieri e sono straordinari, in Italia ce ne sono, no, anche pochi. È una vera filosofia. Una filosofia che qual è? Quella del libertinaggio, di che cosa? Qual è la filosofia? Beh, c'è chi la prova e chi non la prova, però insomma il senso già di avere una libertà di espressione, di poter fare a Roma, comunque una capitale che dove purtroppo se andiamo verso sì la chiusura di determinati preconcetti, di determinati concetti, insomma, diventa sì un paese sì bigotto. Io oggi non voglio i voti dalle persone bigotte, voglio i voti dalle persone libere che la pensano come me. Adinolfi, Adinolfi come lo consideri? Adinolfi è una persona che somatizza. No, ma come lo consideri? A chi lo accosti come altro personaggio? Ti vuole chiudere tra l'altro il tuo club? Io ovviamente non lo considero, è lui che mi ha considerato. D'accordo, ma tu come lo consideri? Un signore un qualunque, un talebano, no, Hitler, non che ne so? Cioè, beh, guarda, sinceramente lui si manifesta come la persona portavoce delle famiglie, no? Io invece sì rispondo sotto il profilo cristiano, cioè ognuno ha il proprio percorso. Se la famiglia fa parte del proprio percorso personale, ben venga, quindi il matrimonio, ma poi a prescindere, insomma, ognuno ha il proprio percorso di vita, sì, indistintamente dalla famiglia. Senti, secondo te c'è più prostituzione più è uguale in un paese? Più prostituzione significa più ricchezza? Io sono convinto di questo, che più prostituzione c'è in un paese, più il paese è ricco. Ma guarda, riflettendoci posso dirti in questo momento storico no. No, perché è un campanello no d'allarme. Quando c'è molta prostituzione, in base praticamente anche sì all'aspettativa futura del mancanza sì di lavoro, purtroppo si spinge il giovane poi a fare non ho capito niente. Allora, la cosa che ti volevo chiedere è questa: più prostituzione sì significa più ricchezza? No, ti sto dicendo che no. Tu ti sei mai prostituita? Allora, se c'è prostituzione nel paese, no, ma tu ti sei mai prostituita? Tu ti è, sei un mai è un campanello d'allarme per quanto riguarda la mancanza di lavoro e quindi sì, vabbè, d'accordo, questo lo sappiamo. Ma tu ti sei mai prostituita? Ma io sono una persona curiosa e devo dire che tra tanti mestieri che c'entra la curiosità con la prostituzione? Proprio questo, insomma. Tu che ti sei prostituita? Beh, sì, mi sono divertita. Poi quando me lo diciamo non c'è la scelta, no, di poterlo fare, quindi non hai alternative, no, allora io mi metto in gioco e comincio a fare altro. Vabbè, d'accordo, ma la domanda è molto semplice: ti sei prostituito nella tua vita? Sì. Può essere capitato, forse, mi pare di aver capito. Ma non è una cosa strana chiedere a una persona che ha avuto una sua sì, vita, sì, un suo percorso. Mi pare di aver capito dalla sua risposta. Ma sicuro che è uno dei mestieri più divertenti. Dunque, l'hai fatto, l'hai pratico per quanto tempo? L'ho fatto fino a quando ero scelta di scegliere. Fino a che ero libera di scegliere, quando purtroppo invece la società mi ha imposto di fare determinate cose, mi sono arrampicata, ho tirato fuori le unghie. Ma perché, perché dopo non è libera di scegliere? Se uno... Perché se non hai lavoro non sei più libera di scegliere se fare determinate prestazioni o meno. No, non ho capito. Se uno è libero di scegliere, non hai lavoro. Cioè, tu l'hai fatto quando non avevi lavoro, dunque? No, io l'ho fatto quando avevo il lavoro. Quando ho perso il lavoro ho cominciato a fare altro. Beh, non ho capito bene questo. Lo faceva cosa quando era aveva voglia di farlo, l'ha fatto fino a quando ha avuto voglia di farlo ed aveva comunque una sua sussistenza economica. Sì. Non l'ha mai fatto per necessità la prostituta, questo dice. Beh, sì, ma mi pare esatto di aver capito. Quindi fino a che posso scegliere, la libertà è il senso del civile della città. Quindi lei dice fino a quando sì, non l'ha fatto per bisogno, questo vuole, non l'ha fatto per bisogno. Vabbè. No, ma poi vogliamo parlare a proposito dei candidati sindaci che praticamente sono contro le unioni civili. E vabbè, quello non Raggi, cosa ne pensa a proposito, visto che non si è esposta fino ad oggi? Beh, io non so. Allora, quello... io sono sceso in politica oggi è perché Roma, nella prospettiva futura, sì, qui la rappresentano come un paese provinciale, cosa che invece sì dobbiamo pensarla come una città, grande anzi, città. Una capitale che ha sì, più potenzialità dubbio di qualunque altra, dubbio, perché abbiamo un potenziale sì storico, storico, grandissimo. Roma, io però, Roma io però più che il potenziale... Sì, più secoli che il potenziale, io più bad romance, meno Adinolfi, direi. Grazie, arrivederci, arrivederci, arrivederci, arrivederci. Salute. Andate a fanculo. Voi ci dovete far bellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Siamo ad alti livelli qua, eh. Radio 24. La passione si sente.